nascerò di regnare ciò che d'amar non posso. Un'anima costante, abbastanza e felice, regna sol chi da steria al corpo siede e fuor da steria.